America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, primo vertice tra Bibi Netanyahu e Donald Trump ieri alla Casa Bianca. Ne parlerò in modo più diffuso perché adesso vorrei partire con alcune notizie. E beh, il fatto che alcuni dei manager, alcuni dei personaggi che lavoravano alla campagna di Donald Trump erano stati in contatto con agenti dei servizi segreti russi. Ecco, qui secondo me di nuovo bisogna tradurre qualche cosa, perché detto così sembra che ci fosse qualche collusione con agenti segreti della Russia. In realtà erano in contatto evidentemente con dei russi, i quali non si sapeva che fossero gli agenti segreti, almeno questa sembra secondo me la versione più credibile. Ma resta il fatto che lo scandalo Flynn, diciamo così, continua in qualche modo a dominare. Donald Trump in conferenza stampa ieri ha minimizzato, è inutile che continuiamo a creare un affare di Stato attorno a questa cosa, però attenzione, questo è il piccolo stillicidio con cui si comincia e quindi bisognerà vedere dove questo treno che ormai ha lasciato la stazione andrà a fermarsi. Ci sarà qualcuno in congresso che vorrà capire meglio che cosa è successo? Ci saranno delle altre rivelazioni? Beh, questo per ora non lo sappiamo, ma sappiamo che c'è una cosa piuttosto importante. Ecco, Donald Trump ha anche scelto il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, Robert Howard. Devo dire una bella scelta questa di Howard, ex vice ammiraglio, ma soprattutto un uomo molto duro, uno di quelli che ha combattuto al fronte, ed è un uomo considerato straordinariamente intelligente, moderato, preparato, la persona che ci vuole per non dare spazio a coloro che secondo me rischiano di danneggiare un pochino Trump, cioè i consiglieri tra virgolette elettorali come Stephen Bannon o come la Conway. Dunque una buona scelta che aiuterà Donald Trump. The alliance remains a fundamental bedrock for the United States and for all the transatlantic community, bonded as we are together. Mattis, vi avevo detto che sarebbe arrivato in Europa, e già da ieri in Europa dichiarazioni importanti, quella che vi ho fatto ascoltare, beh, è centrale perché riafferma che la NATO resta la piattaforma fondamentale per gli Stati Uniti e per tutta la comunità transatlantica. Ha confermato che Trump sostiene fermamente la NATO, però ha lanciato anche un avvertimento molto preciso, e cioè i membri devono pagare il 2% che è stato deciso, e dunque è bene che lo facciano, è bene che rispettino i patti, altrimenti gli Stati Uniti dovranno diminuire in qualche modo la loro presenza in Europa. Io non credo che questo succederà, però già in passato ne avevo parlato. Chissà che questo non sia un cavallo di Troia per scardinare le rigidità che impediscono ai vari paesi membri della NATO e dell'Europa di superare quella barriera del 3% di disavanzo PIL con un escamotage, cioè escludendo le spese militari dal famoso 3%, che è una cosa rigidissima nel rapporto di disavanzo PIL secondo gli accordi di Maastricht. E a questo punto pensate, se ci fosse un 2% di stimolo fuori da quel tetto del 3%, beh, potrebbe essere sicuramente un'operazione interessante, soprattutto per paesi come l'Italia che hanno disperato bisogno di procedere con operazioni di stimolo. So I'm looking at two state and one state, and I like the one that both parties like. I'm very happy with the one that both parties like. I can live with either one. Ecco Trump in una delle sue dichiarazioni importanti di ieri dice: sono aperto a una soluzione a due stati, ma anche a uno stato. Sarà quella che preferiranno le parti. Io ho pensato che quella a due stati fosse la più semplice, ma se la Palestina e Israele sono soddisfatti con uno stato, lo sarò anch'io, a prescindere dalla soluzione che adotteremo. Allora, attenzione, perché questa è una dichiarazione molto importante. Lo avete sentito il tono di Trump, no? Cioè, in sostanza, Trump introduce una variante storica nel negoziato Israele-Palestina, e cioè la variante che, si può anche trovare una soluzione con uno Stato. È da decenni che si parla esclusivamente di soluzione a due Stati. Quindi sulla carta sembrerebbe una virata piuttosto forte, però in concreto lui dice: ma no, fate quello che volete, io mi chiamo fuori, quello che preferite, per me basta che funzioni la pace, io sono contento. Che cos'è? È una carta negoziale per smuovere un po' le acque. Alla fine io credo che la soluzione a due stati sia quella nell'interesse di tutti, ma registriamo anche questo sviluppo. Ecco invece la vera notizia importante, la vera novità, è che il processo di pace per il Medio Oriente tra israeliani e palestinesi non avverrà più semplicemente in un dialogo a due, ci sarà il dialogo a due, ma sarà immerso in un contesto molto più ampio di quello attuale. Saranno coinvolti i paesi arabi della regione. Donald Trump ha detto paesi molto importanti, e dunque per dare un respiro molto più ampio a questo accordo di pace che deve essere complessivo. E qui, qui l'America può giocarsi la carta di recuperare una leadership in Medio Oriente. Io non so se Trump ci riuscirà o no, però l'idea non è sbagliata, cioè quella di creare una grossa coalizione di paesi arabi sunniti che temono le intrusioni dell'Iran e di costruire attorno a questa esigenza collettiva una nuova forma di alleanza. Adesso anche Netanyahu lo ha detto, sentiamo. I believe that the great opportunity for peace comes from a regional approach, from involving our newfound Arab partners in the pursuit of a broader peace. Ecco, Netanyahu dice chiaramente, cioè, posso dirvi che molti paesi arabi sono interessati a quello che succederà fra noi e i palestinesi, e molti di questi paesi oggi sono molto più vicini ad Israele di quanto non siano mai stati in passato, anche perché sentono la minaccia comune del terrorismo, degli estremismi islamici. Ecco, questo è il contesto in cui il vertice si è sviluppato, e devo dire, se dovesse davvero partire questo negoziato multilaterale, perché di questo si sta parlando, è quello che ha detto Donald Trump, e cioè sarete sorpresi, chiunque è seduto qui con noi e tutti quelli che ci ascoltano da fuori, forse si renderanno conto che questo progetto potrà portare davvero una pace duratura. Tra l'altro Trump ha anche sottolineato che vuole cominciare subito con questo processo, cioè non voglio aspettare la fine della mia amministrazione come hanno fatto i miei predecessori, si deve cominciare a lavorare da subito. As far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements for a little bit. We'll work something out, but I would like to see a deal be made. I think a deal will be made. Ecco, devo dire, l'atmosfera tra Donald Trump e Bibi Netanyahu era molto molto amichevole. Io non ho mai visto un sorriso così soddisfatto stampato sul volto di Netanyahu come quello che ho visto ieri alla Casa Bianca. Quando veniva alla Casa Bianca di Obama aveva sempre un volto così un po' grigio, un po' tirato. Insomma, i due se la intendono, si conoscono da decenni, e dunque questo naturalmente può anche aiutare. E qui Donald Trump però dà un piccolo buffetto a Netanyahu, dice: so che questo non piacerà al mio amico, ma credo che sappia benissimo che ci dovranno essere dei cedimenti da parte israeliana per raggiungere un compromesso. Quali sono questi cedimenti? Basta con gli insediamenti. Ecco, questa cosa a Netanyahu non è piaciuta, è piaciuta invece ai palestinesi, che sono subito saltati sulle dichiarazioni. La prima dice: insomma, noi continuiamo a essere per la soluzione a due stati, non quella di Israele che vorrebbe una soluzione a uno stato, e soprattutto Israele deve rispondere alla richiesta del presidente Trump di fermare tutte le attività di insediamento. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americamediquattro.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di pace, Donald Trump ha detto di essere convinto che questa pace ci sarà e che lui riuscirà a trovare il compromesso anche con l'aiuto di suo genero Jared Kushner, e dunque dedichiamo alla pace la canzone del giorno, Curtis Mayfield, We Got to Have Peace. Dobbiamo avere la pace. We gotta have peace to keep the world alive and war to cease. We gotta have joy to win our hearts with strength we can't destroy. People hear us through our voice, the world knows there's no choice. Making save the children, the little ones who just don't understand. Give them a chance to breathe their young and help purify the land. People hear us through our voice. The world knows there's no choice. What? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!